cartoline per Copenaghen. Diego Redini, faccio l'agricoltore e l'allevatore a Caneto sull'Oglia in provincia di Mantova. Negli ultimi anni c'è sempre un'annata più eccezionale dell'altra, però diciamo che reperendo l'acqua in un fiume, il fiume Oglio, che passa vicino a noi, quindi pescando da questo fiume, abbiamo visto che in alcune annate particolarmente siccitose il livello del fiume si abbassa di molto. Nei mesi estivi produce molto meno latte. Questo è sempre successo anche anni e anni fa, però se le estati sono sempre più siccitose, sempre più torride, soprattutto gli animali soffrono l'alta percentuale di umidità, questo diciamo incide su proprio tutta la vita dell'animale, quindi dalla fertilità alla produzione, e questo per noi vuol dire reddito. Più c'è benessere animale, più c'è anche profitto per l'allevatore. E quindi le turbine che noi avevamo e abbiamo tutt'oggi, che servono per pescare l'acqua da questo fiume, abbiamo dovuto abbassare questa turbina perché non riusciva più a soddisfare il fabbisogno di acqua. Il livello del fiume si è abbassato e la turbina non poteva fare più il suo lavoro, però questa turbina era giù da più di 40 anni a quel livello in cui era.